mercato, se deve essere utile in questo momento, doveva partire prima, non so il mercato di gennaio quanto possa essere interessante a fine gennaio. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Riguardo al cortocircuito di cui parla il direttore sportivo della Roma, penso che sia un qualcosa che probabilmente lui conosce bene. È una situazione in cui si è trovato spesso negli ultimi mesi a Roma, soprattutto quando si parla di conferenze stampa e interviste, quindi sarà lui probabilmente la persona più adatta a spiegare a noi cos'è un cortocircuito. Per tranquillizzarlo posso dire che noi all'Inter siamo assolutamente tutti allineati. Quando inizia una negoziazione, inizia perché ci sono tutte le componenti che sono d'accordo. Politano è un giocatore importante del club, è un asset del club e noi, se ci sarà l'occasione e la possibilità per favorire, visto che a livello tecnico questa opportunità era arrivata e dovesse presentarsi qualche altra situazione, noi cercheremo anche di accontentare il ragazzo. Eriksen è un giocatore importantissimo, come tutti i giocatori di grande qualità è normale che ha attirato le attenzioni dei club più importanti d'Europa, ha una situazione particolare che è quella della scadenza di contratto a giugno, noi ci stiamo provando, ci siamo presentati in modo ufficiale anche al Tottenham, abbiamo fatto la nostra offerta e adesso stiamo aspettando. Questo ausilio, ma continua, l'avete capito, su Netflix, come dice mio amico Pardo, la telenovela Politano Spinazzola Inter Roma. Ciao Pier. Ciao, disponibile in 24 episodi. 24 episodi. No, magari la vuoi ospitare all'interno come rubrica fissa all'interno di TikTok, può essere un'idea, no? Ma guarda, io qualche giorno fa l'ho sparata un po' lì su come secondo me andrà a finire che Politano andrà alla Roma in prestito con diritto di riscatto oppure obbligo di riscatto vincolato a un certo numero di presenze. Io non so, queste cose tecniche non le so, però mi sembra chiaro che ci sia una volontà precisa della Roma di prenderlo, una volontà precisa del giocatore. Sappiamo che la volontà del giocatore spesso è determinante di andare alla Roma, lo stesso situazione forse non c'era con l'Inter, uh-huh. Marotta fa precisa che non c'è mai stata la foto mentre c'era stata quella di Politano con la sciarpa della Roma, probabilmente dice questa cosa. Poi sicuramente i toni sono un po'... Era la puntata 3 quella. La puntata sì, numero 3. Esatto, era quella della settimana scorsa, aspettiamo un nuovo episodio. Però, stai facendo il riassunto delle puntate precedenti. No, io ribadisco quello che ho detto il primo giorno perché non cambio idea. Cioè, uh-huh. Secondo me lo scambio Politano-Spinazzola era... dal punto di vista tecnico, così visto da fuori, senza fare le visite mediche ai giocatori, al di là del fatto che poi Spinazzola l'altro giorno ha fatto benissimo, voglio dire, astrattamente era una win-win, cioè risolveva un problema a tutte e due le squadre. No, ma mentre ti dico una cosa, che la notizia di adesso che Claudia Schiattone mi segnala, saluta anche Gianmarco Ferronato, naturalmente maestro, all'Inter evidentemente hanno dei parametri strani, perché cioè strani, diversi, superiori, che ne so, perché Moses, allora, oggi è andato a fare le visite mediche che sono durate un po', vabbè, finite le visite mediche, allora gli hanno detto: bene, la tua corte parcheggiala in sede, li trattiamo bene, gli diamo caffè, tu vai al Suning Center per ulteriori test atletici dopo le visite mediche svolte in mattinata, vediamo che cosa succede lì. Ciao Fabio Parisi, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, non so se stai seguendo anche tu su Netflix Spinazzola, Politano, Roma Inter. No, io le seguo su TikTok perché ormai sono specialista, Pieri, in telenovele. Mi riferisco ai Cardi l'anno scorso, quest'anno potrò mettere Politano, poi vediamo. E beccati questa, Pardo. Guarda, ho già dato, adesso per i prossimi anni vorrei un po' di tranquillità. Chi mi conosce sa che è proprio la mia unica passione. Ne abbiamo parlato di persona a microfoni spenti, quindi. No, ma senti, sei d'accordo con Pierluigi sulle sue idee già espresse più volte, che io condivido, Politano Spinazzola, cioè sarebbe stato lo scambio giusto. Adesso vediamo cosa fa Politano. Intanto Roma e Inter da un lato provano ad avvicinarsi, no, Petrachi, Marotta, ma no, in fondo siamo amici, ci vogliamo quasi anche bene. E poi arriva Ausilio, no, mi cortocircuito, ci vanno loro, specie quando si tratta di parlare con i giornalisti. Sai, sono schermaglie, l'operazione aveva un senso logico, era stata impostata, poi si vede che, e questo non lo posso sapere perché non l'ho seguita, non sono a conoscenza di quello che si erano detti all'Inter, alla Roma e le altre cose. Poi evidentemente è successo qualcosa che ha fatto così vacillare quelle che erano gli accordi presi e l'operazione è saltata. Io credo che per la parte di Politano possa essere rimessa in piedi, per la parte di Spinazzola no, ovviamente, perché l'Inter ha preso due esterni, non uno, due, quindi che Spinazzola venga all'Inter la vedo praticamente impossibile, che vedo che Politano vada alla Roma la vedo molto molto molto più probabile. Sì. Sia perché c'è la volontà del giocatore di andare a giocare, sia c'è la volontà dell'Inter. Comunque, come ha detto giustamente Piero, Politano in questo momento è un asset della società dal punto di vista finanziario, non lo è dal punto di vista tecnico perché è fuori dal progetto tecnico. Sì. Però essendo un asset finanziario non lo devi svalutare più di tanto, perché altri sei mesi a non giocare sarebbero deleteri per il ragazzo, ma anche per l'Inter che perde capitale. Quindi se effettivamente c'è la volontà del ragazzo di andare a Roma e la Roma di prenderlo, io credo che la soluzione si sbloccherà nel giro di qualche giorno. Sì, al di là delle schermaglie, cos'altro ti aspetti dal mercato dell'Inter? Perché abbiamo detto, vabbè, Moses è a Milano, ha fatto visite mediche, adesso è normale che una volta si facevano le visite mediche, il dottore ti vedeva se avevi le ginocchia che stavano bene, le caviglie, sì. Ti facevano salire e scendere dalla scaletta, adesso... Sì. Le visite mediche non sono semplicemente visite mediche, nel senso che sono accertamenti clinici e un'idoneità che in Italia è per legge deve essere acquisita, ma poi subentrano tutta una serie di valori e di parametri fisici dei test attitudinali che fanno sì che quando la società deve fare un investimento sia ben tutelata da questo punto di vista. Io credo che l'operazione giustamente avrà i suoi tempi, ma sarà un'operazione che andrà in porto, quella di Moses. Anche perché Moses conosce bene Conte e Conte conosce Moses, certo. L'Inter ha bisogno di un esterno e quindi l'operazione si farà. Certo, poi Eriksen e Giroud, no? Eriksen è un'operazione che l'Inter ha impostato, come ha detto giustamente Ausilio, è una situazione particolare perché probabilmente ci sarebbero tante squadre disponibili a fare i ponti d'oro a Eriksen a giugno. Fra queste anche l'Inter, però l'Inter piuttosto che mettersi a fare un'asta cerca di togliere il giocatore prima dal mercato, anche perché il giocatore serve subito e di conseguenza ci sta provando. Poi trattare con Daniel Levy è una delle cose più che non auguro a nessuno, perché è un osso di prima categoria, c'è una specie di De Laurentiis Lotito, quella categoria lì. È un osso di prima categoria, però io credo che l'operazione si possa fare. Giroud, l'hanno sempre detto, è lì in stand-by, secondo me se esce Politano entra Giroud. Poi Pierluigi, c'è lo strano caso, l'avrai letto, no, di Suso, che non ha un agente e che ha chiesto di essere ceduto al Milan, perché il discorso che faceva Fabio prima su Politano è un asset dal punto di vista economico, non in questo caso non è più Suso, a quanto pare un asset dal punto di vista del progetto tecnico, non ha più procuratore perché ha rotto con uno, non è ancora d'accordo con l'altro che sarebbe il solito Raiola, e quindi ieri è andato da solo a litigare con Maldini e Boban per essere ceduto. Insomma, è un po' naif questa cosa, però io credo che in generale in assoluto gli agenti servono soprattutto perché hanno la possibilità di dire delle cose. Darti una sponda sempre quando stai facendo una trattativa, nel senso che un conto è se una cosa la dici tu in prima persona e allora è impossibile tornare indietro, un conto se la dice il tuo agente, allora lì ci può essere un margine, no, per tornare, per mediare, per arrivare a una conclusione anche dal punto di vista strettamente economico. A me sorprende un po', lo dico sinceramente, sorprende. Io anche ieri parlavo con Francesco Mantelli, che è un altro tifoso del Milan, sperato da Suso. Sicuramente il rendimento dell'ultimo anno non è stato all'altezza, sicuramente e poi c'è un fattore ambientale, che comincia a diventare veramente molto molto complicato. Mi fa un po' effetto, lo dico sinceramente, perché Suso non è un cattivo giocatore, cioè un giocatore che secondo me un'altra chance rischia, in un'altra chance rischia pure di far bene. Però ecco, credo che l'aspetto ambientale sia quello decisivo, cioè, si è arrivati a un punto in cui probabilmente il rapporto con buona parte della tifoseria è talmente logoro che sì, conviene a tutti fare un'altra, beh, ma poi fare un'altra strada. Anche Fabio, se devo parlare di uno scambio possibile con Under, con Under. Sì. Beh, anche questa è una storia che ci può stare, insomma, penso che comunque stiamo parlando di due giocatori di due scommesse, no? Cioè di due giocatori che sono di livello simile, secondo me. La sensazione è che ciascuno abbia finito il suo percorso nella squadra di appartenenza attuale, al di là del valore assoluto, ma anche Fabio sa benissimo, si era trovato anche lui in queste situazioni qui, quando un giocatore sembra aver esaurito il percorso, fattori ambientali. Ma sicuramente, no, sicuramente. Cioè, sì, questo è assolutamente vero. Devo dire che anche Suso forse è stato penalizzato dal cambio di modulo, prima con Giampaolo che l'ha visto, poi l'ha messo in mezzo, poi l'ha messo fuori, poi è arrivato Pioli, prima ha giocato coi tre, adesso gioca coi due, è arrivato Ivra, cambiano le cose. C'è un discorso di base. Allora, prima di tutto voglio fare una piccola cosa. Secondo me Suso ha perfettamente l'agente e sa benissimo chi è il suo agente. Ieri ha voluto andare da solo, probabilmente perché proprio per cercare di non inasprire i toni, forse andando lui, cercando di parlare con Maldini, Boban e Massara per cercare di chiarire la situazione. La gente diventa fondamentale nel momento stesso che non è Suso che può mettersi, alzare il telefono e chiamare a destra e a sinistra tutte le squadre in Europa. Non lo può fare lui, è giusto che lo faccia qualcuno per lui, quindi secondo me c'è qualcuno che lo sta facendo. La secondo aspetto differente è che, per esempio, rispetto a Politano, Suso è un asset diverso perché è stato firmato a parametro zero, non ha degli ammortamenti da fare, non genererà una minusvalenza, nel senso può generare una plusvalenza più piccola. Questo è diverso, ecco, c'è un valore di mercato che però io sono convinto che se effettivamente ci sarà una squadra che vorrà prendere Suso non in prestito, col diritto, con obbligo, ma vorrà prendere Suso, si siedono al tavolo con Maldini, Boban e Massara e una soluzione la trovano, proprio per questo, perché i 40 milioni della clausola, sì, sono una clausola che era stata messa quando Suso stava facendo un certo percorso al Milan, adesso non lo fa, però se il Milan vende Suso a una cifra inferiore ai 40 milioni, non è che fa una minusvalenza, fa una plusvalenza più piccola. Se l'Inter cede Politano a un valore più basso di quello che ce l'ha a bilancio in questo momento, fa una minusvalenza e questo non va bene. Sì, questo sì, è un chiaro aspetto finanziario che va tenuto conto. Poi dipende, in questo momento Suso, Politano ha un mercato, ha una società che è la Roma che lo vuole. Oggi, per quello che sento, ripeto, siccome non sono io l'agente di Suso e non l'ho mandato dal Milan per giocare, ma tu dici quindi Suso ha l'agente, però io leggo che con Lucci non, cioè Lucci non è più il suo agente, con Raiola non ha ancora chiuso le storie, poi so, è una mia considerazione questa, dico soltanto che Suso, se si trova una soluzione, ci sia da un tavolo, la soluzione la si trova, anche perché è comunque un buon calciatore, è comunque un calciatore che ha un certo mercato, si tratta solo di trovare quello che possono essere la quadratura del cerchio. Senti, amico mio, hai cambiato idea su Ibrahimovic? Tu non eri così entusiasta? No, devo dire che io forse non sono mai stato per i cavalli di ritorno. Ibra però è un cavallo speciale, basta vedere come sta prendendo la situazione. Devo dire che Ibra è arrivato e il Pioli, lui si è messo a disposizione della squadra, ma anche Pioli si è messo a disposizione sua, nel certo senso che lo sta facendo giocare con un modulo diverso, con un modulo che innanzitutto non penalizza Leao. Sì, certo, sta penalizzando Piontek, però Piontek si sa si, che si penalizza anche un po' da solo, esattamente, questo non volevo dirlo, però devo dire che effettivamente, guarda, io sono stato uno dei primi, tanti anni fa, ad andare a parlare con Zlatan quando lui era all'Ajax e mi aveva già allora, che era ventenne forse. Sì, 20-21. Una personalità, una determinazione pazzesca. Poi lui a quel tempo, anche lui era abbastanza così, cambiò diversi agenti, uno in fila all'altro, si decideva, poi ha scelto Mino e ha fatto la carriera che ha fatto, non grazie a Mino, supportato da Mino, ma ci ha messo del suo ovviamente. È un giocatore che, cioè, sorprende perché sta bene fisicamente, è una bestia, è determinato, fa gol, a personalità, a temperamento, che è una dote che pochi hanno, sì, e sì, che è fondamentale. Diciamo che ha presenza scenica anche quando non tocca così tanti palloni. Assolutamente. Infatti io e Pardo gongoliamo tutti i giorni, no? Noi siamo degli ebraisti della prima ora. Felice per il Milan di essere non sbagliato, ma di essere stato un pochino scettico. Sì, però... sì. No, invece io e Pardo gongoliamo, come dicevamo, perché scettici non lo eravamo, semplicemente facevamo motivo per il suo ritorno in Italia, che poi fosse Milano, Bologna, poco importante. Vederlo giocare. È un piacere vederlo giocare. È un giocatore capace, con i suoi comportamenti, di condizionare in positivo i compagni, di condizionare in positivo l'ambiente. Insomma, l'altro giorno, sarà un caso, il Milan poteva perdere, forse diciamo non doveva vincere da un punto di vista poi di quello che è in campo la partita, perché l'Udinese ha fatto una grande partita, d'accordissimo, l'ha vinta probabilmente nell'aria, nell'atmosfera, nello spirito di San Siro. Domenica scorsa alle 12:30 c'era un po' di consapevolezza in più, un po' di autostima in più, e il calcio a quei livelli lì è fatto di piccoli dettagli. Sì. È una sfida per eccellenza, come ripetiamo spesso, e uno come Ibra è uno di quelli che secondo me i pianeti li allinea in positivo, nel senso che porta i compagni di squadra a dare qualcosa in più, a credere in se stessi in più. Cioè non è un discorso astratto così, diciamo, da ora di No, chiaro, sì, io sono d'accordo. Cioè, tu sai che sei un giocatore del Milan, sai che comunque hai quello lì davanti, puoi anche giocare a San Siro, ti mette pressione, ti mette ansia, bla bla bla, sai che comunque hai il grande parafulmine là davanti. Senti, Pier, due mesi fa il Milan l'avrebbe persa quella partita. Sono d'accordo. Senza la personalità, la voglia di Ibra in campo, l'avrebbe persa quella partita. Assolutamente. Ed è questo che effettivamente in questo momento sta facendo. Poi credo che sia uno a cui non piace perdere neanche nella partita, due partite alla due tocchi di riscaldamento, gli girano le palle. Sì, i compagni lo sanno perfettamente. Poi milanisti, sulla scorta di questa vittoria non del tutto meritata, ma comunque arrivata, e sono tre di fila considerata quella in Coppa Italia, adesso vedono cose tipo Theo Hernandez, il nuovo Bale, ragazzi. Però Hernandez onestamente è il migliore del Milan quest'anno. Sì, sì. Giocatore, e anche lì vale un po' il discorso Lukaku. Basta abbonarsi a una delle televisioni che propongono il calcio internazionale, non è una sorpresa, perché è un giocatore che si sapeva che poteva far bene. Poi sta vivendo una stagione particolare, è stato uno dei primi a tenere alta la bandiera nei momenti difficili. Ma insomma, però ecco, tornando al discorso di prima, io credo che ci sia proprio. Non è facilmente misurabile, perché non lo puoi misurare in gol, in assist, in possesso, però ci sono all'interno di un gruppo, soprattutto non fuori di squadra, delle dinamiche che poi, se parli con gli allenatori, te le spiegano, te le raccontano. È qualcosa di immateriale che però può fare la differenza. E beh, tutto il bene possibile. Tornando a te, Hernandez, l'operazione meglio riuscita di Elliot fin qui, cioè il prototipo dell'operazione che Elliot vorrebbe fare e moltiplicare n volte, cioè il giocatore preso a 20 milioni, adesso si parla di 50. Chiaramente, nuovo Bale, vediamo. Chiaramente, il migliore del Milan in questa stagione, Fabio, magari un giocatore monetizzabile in futuro. Ma io credo che il Milan abbia preso Hernandez e deve cominciare a pensare che, allora, o si vuol tornare, come tutti hanno dichiarato, a essere il Milan, allora non devi pensare di monetizzare, devi pensare che ha preso un giocatore che farà il titolare del Milan. Certamente. Perché è funzionale al Milan ed è di livello del Milan per i prossimi 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni. Questo dipenderà da Hernandez, e questa è un po' la situazione. Che Hernandez avesse del talento era in dubbio. Hernandez fosse un giocatore così un po' particolare dal punto di vista caratteriale, era in dubbio anche quello. Il talento non si acquisisce, la voglia, l'esempio, probabilmente sentiva parlare di Maldini, adesso Maldini l'ha conosciuto e magari ha capito determinate situazioni, e il suo così, la sua attitudine è diventata molto positiva e i risultati stanno venendo. No, poi è chiaro che in questo momento Hernandez è sicuramente quel giocatore che ti dà sicuramente qualcosa in più in questo momento, tanto in più in fase offensiva, ma ti toglie un pochino in fase difensiva. Certo. Però in questo momento il Milan ha sicuramente più bisogno di di esprimere un gioco positivo, di fare dei gol, di recuperare entusiasmo. È e uno quindi, di quelli che accende la scintilla, anche dal punto di vista dell'energia, esatto, dell'emotività. È meglio vincere le partite 3-2 come quella con l'Udinese all'ultimo minuto, piuttosto che vincere le partite 1-0 del grandissimo Milan di Fabio Capello, che però aveva delle caratteristiche completamente diverse, era un Milan diverso. Sei buono, meglio l'1-0. No, a parte le battute, soprattutto per quella che era la situazione del Milan, perché il Milan nella prima parte opaca della sua stagione, non si può dividere il campo in compartimenti stagni, per carità, però il problema ce l'aveva soprattutto davanti. Il problema del Milan non è la robustezza difensiva, che tutto sommato, a parte Bergamo, insomma, raramente è stata messa a dura prova. Cioè, il Milan comunque dal punto di vista della solidità è stata una squadra più che dignitosa in tutto il girone d'andata. Il problema era la fase offensiva, e quindi i gol che cominciano a essere parecchi, le giocate, le incursioni di questo ragazzo hanno pesato e stanno pesando, perché stanno contribuendo a risolvere il problema principale del Milan della prima parte della stagione. Certo, ragazzi, stiamo giocando, invito anche gli ascoltatori 349-238-6666, WhatsApp vocali quando ci sono li facciamo sentire, numero verde 800-24-0024. Vi chiedo, comincio da te Pierluigi, faresti lo scambio Bernardeschi-Rakitic, che ovviamente è stato smentito da tutte le parti, è probabilmente una mezza fantasia, però tu lo faresti? Ma a parte che ho sentito parlare di conguagli, io ti dico che, lasciando perdere gli aspetti economici, e poi forse quando si dirà qualcosa di più da questo punto di vista, è uno scambio che secondo me, come molto spesso avrebbe succede, un senso. No, avrebbe un senso, perché metti insieme due elementi, il presente e il futuro. In questo momento Rakitic secondo me è un giocatore che alla Juve farebbe comodissimo per il proprio percorso. Bernardeschi è un giocatore, un investimento un po' più di prospettiva. Sul valore ad oggi non me lo voglia Bernardeschi, ma Rakitic è un'altra categoria. Sì, sull'utilità nel contesto juventino prospetto. Probabilmente. Beh, no. Per l'utilità sicuramente, al di là poi del discorso di poter giocare la Champions League, che non è un dettaglio, però Rakitic certamente è un giocatore che farebbe... Rakitic è un maestro del centrocampo, è un signore del centrocampo, è nella categoria secondo me dei 10 migliori centrocampisti che ci sono stati negli ultimi anni in giro per l'Europa, quindi un Rakitic che sta bene ti fa la differenza. Fabio? Ma io non sono così convinto dell'operazione come lo è Pierre. La Juventus ha giocatori importanti in questo momento, non dimentichiamoci che ha fuori Emre Can, fuori lo stesso Khedira, però ha comunque sempre Pjanic, ha Ramsey che sta cominciando a capire quella che è la situazione, ha Rabiot che sta crescendo, sono tutti giocatori giovani. Bernardeschi è un giocatore italiano che ha del talento, che ovviamente è in una delle squadre, nella squadra più forte d'Italia, sicuramente è in una delle squadre più forti d'Europa, e ha una concorrenza giocando davanti fatta da giocatori come Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, che gioca poco, anche Douglas Costa sappiamo benissimo le caratteristiche ha e fa un pochino più fatica. Se poi diventa un'operazione anche finanziaria, allora è un discorso completamente diverso, ma io scambiare un giocatore come Rakitic, per forte che possa essere, con tutto quello che vuoi, che però mi sembra abbia un trentello, sì, 30 anni, mal contato, sì, una roba del genere. Con uno come Bernardeschi, italiano, più giovane così, non lo so. Non lo so, in questo sì, c'è anche momento, da dire che sarebbe un investimento sul presente, secondo me, più sul presente che sul futuro. Sarebbe un investimento sul presente, ma allora faccio semplicemente una domanda e ditemi voi, le chance della Juventus di vincere la Champions League di quanto aumentano con Rakitic rispetto a avere Bernardeschi? Vale la cioè il gioco vale la candela di privarsi di un talento italiano? E lo so Fabio, però talento italiano Bernardeschi a me piace da morire come giocatore, però sembra davvero ai margini del progetto, cioè anche lì ci sono difficoltà ambientali, e vabbè, perché sappiamo che non è attualmente nelle grazie del pueblo juventino, e vabbè, ma questo conta poco. A Emre Can, che secondo me è un altro super giocatore, però è finito ai margini di quel progetto lì perché non serve poi tanto, perché non gli si trova una collocazione. Anche Bernardeschi, allora, si è detto mezzala, va bene, a mezzala ha provato un po' con allora, l'Udinese e... monetizzo Bernardeschi, uh-huh, e poi vado a prendere dover sacrificare per prendersi in casa un giocatore forte come Rakitic, però che alza ulteriormente un'età media che vedi Cristiano Ronaldo, vedi Higuain, sta così, insomma, un pochino cosa, non lo so. Io ripeto, Fabio Paratici sta a fare sicuramente meglio di me il lavoro di costruire una squadra e gestirla sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, quindi non lo so. Io esprimo semplicemente la mia opinione. Pier, qualcosa da replicare? No, che andresti a prendere Pogba, proveresti a prendere Pogba? Pogba, sì, certo, Pogba, però perché ce l'avevi, l'hai dato via e adesso dovresti andare a riprendere? Non è che prendere Pogba lo ripigli gratis, Pogba, sì, certo, è un calciatore che fa la differenza. Innanzitutto bisogna vedere come sta, perché sembra abbastanza desaparecido, a parte nelle sabbie mobili del Manchester United, che credo che ormai siano abbastanza così croniche, sotto gli occhi di tutti. Sì, può esserci Pogba, oppure io rischio, io andrei a prendermi, non so, faccio un nome a caso, piuttosto che spendere tanti soldi su Pogba, che è un fenomeno, altre cose, io investirei su un giocatore, non so, faccio un nome, Camavinga, che non so se lo conoscete o non lo conoscete, che secondo me è il nuovo Pogba, è un giocatore fenomenale. Andresti alla scoperta di qualcosa di nuovo? Andrei a trovare qualcosa di pochino più, visto che comunque le certezze e la realtà le ho, perché ho Pjanic, ho Bonucci, ho De Ligt, ho Cristiano Ronaldo, ho Higuain, sì, queste cose qua, magari provo a andare a vedere quello che c'è, e qualcosa di interessante da Juventus in giro c'è. Poi bisogna anche lì, sai, quando ormai si muove la Juventus, per migliorare la Juventus è un po' è dura, quando va a prendere un giocatore al Real Madrid o al Barcellona, ormai sì, sono Barcellona, investimenti da, non da decine, da centinaia di milioni, tra acquisizione, contratti, ammortamenti e Barcellona e che potrebbe nelle prossime ore ingaggiare Cavani, che è sempre riuscito al Paris Saint Germain, per cui sono in ballo Barcellona Atletico Madrid, ma questo è un altro film, ne parleremo nei prossimi giorni con Filippo Maria Ricci. Grazie ragazzi, alla prossima. Ciao. Grazie a voi, alla prossima. Ciao. Ci fermiamo per la borsa, poi oggi non c'è il Bar Tour, ma il Mar Tour. Poi vi spiego perché. Perché se la Roma va su Suso, non va su Politano. Quindi noi dell'Inter, se vogliamo vendere Politano alla Roma, che è la vera acquirente, bisogna sbrigarsi. Perché sono tutti e due calciatori che giocano a destra, che si accentrano con lo stesso dribbling e tentano il tiro sulla sinistra, con quel fisico baricentro basso. Cioè, sembrano due fotocopie. Quindi uno ne prende uno, prende l'altro. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no. Buongiorno Leo Turrini. Buongiorno. Ma dov'è Marino Bartoletti? Dov'è? Ieri alle 18.30 circa ricevo un WhatsApp. So di darti un dispiacere, ma domani non posso. Ma qui sulla Marino Cormano, dove io sono in coda, tutti si chiedono come mai Marino Bartoletti non partecipa. Lo so, chiedo, e sono io che chiedo a te. Ma dove è andato, dirai tu? Esatto. Allora io vorrei dirti che penso di saperlo. Cioè? Marino Bartoletti sostituirà Monica Bellucci al Festival di Sanremo. voi avrete letto che la Bellucci, dopo le storie di Amadeus, qui la donna un passo indietro, un passo avanti, la grande Monica non ci va, e allora con chi la rimpiazza Amadeus? La rimpiazza con Marino Bartoletti. Ma chiedimi perché sono in coda sulla Pero Cormano. Perché sei in coda sulla Pero Cormano? Che noi interisti ci siamo fermati tutti. Stiamo fermando. Questo pareggio di Lecce ci ha gettato nel più cupo sconforto. Non c'è nulla da fare, nemmeno quest'anno. Eccoci qui, veramente. La Juventus è come la Mercedes di Hamilton. Tutti dicono, è l'anno buono, è l'anno buono. Forza Ferrari, forza Inter, e alla fine Hamilton e Cristiano Ronaldo, la rava e la fava, e io sono in coda qui sulla Pero Cormano. Beh, io... e sono anche senza Marino Bartoletti. Però dato che io ti voglio bene, ho rimpiazzato Bartoletti non con Monica Bellucci, ma con un compare alla tua altezza, cioè Giancarlo Marocchi. No, Ciccio Marocchi. Ciao Giacca. Ciao a tutti, ciao caro Leo. È stata tutta una rotazione. Io ero a Sanremo al posto caro della Bellucci, e poi dopo ho pensato invece di venire qui con te, ho lasciato il posto a Marino a Sanremo. Grazie, ma però Ciccio, dici subito la verità: tu stai con Amadeus, stai con chi critica Amadeus, tu sei un opinionista coraggioso, e quindi, dato che insieme siamo a Sky, dici la verità: meglio Amadeus o meglio Monica Bellucci? Guarda, io ho un approccio così verso Sanremo: mi siedo sul divano e quello che mi danno mi prendo e me lo godo e mi rilasso. Cioè, il mio atteggiamento verso Sanremo è questo. Se vuoi possiamo parlare dell'Inter, allora lì posso cercare di regalarti solo certezze. Vorrei solo che tu, caro Ciccio, mi dicessi una cosa: ma questo Moses che l'Inter compra può essere paragonato a Rita Pavone che torna al Festival di Sanremo? Qual è la tua posizione? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, come piace a me. Esatto, perché Rita Pavone è un piacere vedere cosa ci tira fuori, eppure Moses che mano può dare a Conte, che ne ha bisogno sugli esterni. Io piango ancora perché non ti è arrivato Spinazzola, che considero fortissimo, quindi delle beghe non mi interessa. Mi dispiace tecnicamente, mi dispiace per te e per Conte che non abbiano Spinazzola, perché se tu sulle fasce metti due che corrono velocemente e che possono dare una mano a Candreva, che è rimasto l'unico sugli esterni a correre velocemente, dove serve proprio velocità, ecco che puoi tornare ottimista con la tua Inter che può dar noia alla Inter. Hai capito? Hai capito, Leo? Sei rinfrancato. No, però mi diverte molto il fatto che... No, però mi diverte molto il fatto che state cercando di evadere il discorso vero che a entrambi sta particolarmente a cuore, perché oggi doppia pagina della Gazzetta con il nuovo mostro Mercedes, e tu sai benissimo che Giancarlo lo vedo io a Sky, no? Quando c'è la stagione della Formula 1, sì, va, ovviamente è il più apprezzato tra gli opinionisti, ma il tablet non lo molla mai perché guarda la corsa, sai, no? Ma ne vogliamo parlare di questa Mercedes? Parliamone. E allora cosa possiamo dire? Questi vincono da anni, e in effetti, ho fatto prima l'esempio, somigliano molto alla Juventus del campionato italiano. Hanno Hamilton al volante. Hamilton somiglia molto a Cristiano Ronaldo. Non verrà Maranello, e a Torino hanno Cristiano Ronaldo. Pinotto è interista, e con questo vi ho detto tutto. Sapete già come va a finire, cosa devo aggiungere ancora? Però c'è la legge dei grandi numeri, perché non sempre poi l'acqua va in discesa. Sai che ogni tanto fa un tentativo e può tornare acqua rossa, eccetera, perché una volta che stabiliremo che Leclerc diventerà definitivamente il primo pilota, sai mai che Hamilton lo distraiamo con le sfilate, riusciamo a vincerlo, Ciccio, dai, il campionato. Ciccio, tu sai che io sono, come interista e ferrarista, sono come Ulisse, sto facendo un'odissea nello strazio che dura da moltissimi anni. Però per quanto riguarda Leclerc, intanto diciamo che per farlo sentire meglio in Ferrari gli hanno assunto pure il fratellino, hai capito? Un po' come quando Diego Armando Maradona faceva comprare Ugo Maradona dall'Asco. E allora voi vi chiederete, ma di fronte a questa notizia, qual è stata la reazione di Seb Vettel, che ormai è accerchiato, circondato dai Leclerc grandi e piccoli? Qual è stata? Vettel ha tirato fuori il suo CD preferito e si è sparato un brano di Rino Gaetano, che spero mi farete sentire, mio fratello e figlio unico. Il povero Vettel, hai capito? Persino il fratello di Leclerc! Ma non gli bastava, Carletto, pure Arturino. Io sono anche molto irritato, perché come interista dice, ma a gennaio arriva Arturo, ma chi? Arturo Vidal. Invece no, Arturino Leclerc. Arturo Leclerc, a Ferrari. E se no quello si lancia col paracadute, poi non lo tieni più. Ma scusa, il procuratore di Leclerc, che è Raiola? Il procuratore di Leclerc, attenzione invece, è il Raiola della Formula 1. Si chiama Nicholas Stott. Sì, già figlio, quel nome l'ho già sentito. Ecco, è il figlio di Jean Todt. Allora voi sapete quando Corrado Guzzanti faceva il personaggio di Vulvia Re-Educational Channel e parlando di Alberto Angela diceva ammiccando è il figlio, no? Ecco, alla stessa maniera Leclerc è protetto da Nicholas Todt, che è il figlio del potentissimo Jean Todt, che è il presidente della Federazione Internazionale. È tutto un intreccio, tutto come si suol dire, un magna magna, mano destra, non sa più quello che fa la mano Beh, sinistra. Siamo tutti molto, molto fiduciosi, allora, quindi capire, Giancarlo. Non avete risposto, ha ragione Amadeus, ha ragione Monica Bellucci. Ha ragione Monica Bellucci a prescindere qualunque cosa, non so di cosa stai parlando naturalmente, però ha ragione Monica Bellucci, 100%, non so perché e non so su cosa, però ha ragione lei, di sicuro. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza a traffico, poi abbiamo un altro minuto a Giancarlo Marocchi per la gioia di Leo Turrini, naturalmente. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Ma non mi sembra che basti parlare di Ibra, basta, ma se era così decisivo, così fantastico, come mai è andato a giocare a Honolulu? Basta. Non capisco tutto sto clamore, ma forse perché ci chiamiamo Inter, probabilmente. Perché quando Schick è andato a passare le visite mediche alla Juve, gli hanno detto di no, non l'avete nemmeno menzionato. L'unico che ha parlato è stato il presidente della Sampdoria, che aveva già l'accordo. Non capisco tutto questo ambaradà, ma è normale, perché vi divertite con l'Inter. Complimenti, ciao. È un grande classico dell'interismo, cioè il complesso di inferiorità nei confronti della Juventus, in ogni modo declinato, eccolo qua. Io volevo invece chiedere a Giancarlo Marocchi della partita che hai commentato ieri sera, perché a un certo punto ad Atalanta a spalla hai detto vorrei che questa partita non finisse mai. Io sì. Pensavo tra me e me, no, beh, speriamo che duri 90 più recupero perché ho sonno. Ma però è stata carina, è stata una bella e imprevista partita. Ma guarda, allora detto questo, visto che io mi fido di te e ti credo ciecamente, quando uno può vada anche allo stadio, perché vista lo stadio è stata proprio bella, per merito chiaramente della SPAL, che me l'aspettavo decisamente più arrendevole, l'avevo commentata in casa con il Verona, quindi una non squadra, ma la SPAL si vede che fuori casa doveva vincere a Firenze, poi ha perso, vince a Torino contro il Toro e vince meritatamente contro un'Atalanta imprecisa, forse un po' stanca, abituata ad andare sempre forte, e quando sei un po' stanco e vai forte sbagli un sacco di passaggi. Bello perché a un certo punto, oltre a fare delle belle cose, il gol di Valotti è la ciliegina, c'era anche proprio il cuore. Alla fine tutti volevano fare qualcosa in più e quindi entrate, sdraiati, si aggrappavano alle maglie. Cioè proprio è stato... Sto esagerando un po', ma il finale è stato anche epico in una partita che comunque vai, va solo 3 punti. Certo, e d'altra parte qui viviamo, siamo in un enclave emiliano-romagnola, oggi la Romagna l'abbiamo eliminata, abbiamo solo Emilia, te e Turrini, quindi, quindi sono anche un po' considerazioni regionali. No, ma scherzo. Giancarlo, ci vediamo a Sky, quando mi convocheranno ci vedremo lì. Con piacere. Ah no, ci sono con domani pomeriggio con il mio amico Sasha Giorgiovic alle 16, ma se, se ci sei ci vediamo. Ciao, ciao Gianca. Ciao, ciao. Ciao. Un abbraccio a Leo. Ciao, Leo. Ciao. Leo. Sì. Consiglia di andare allo stadio Giancarlo Marocchi. Però. Però senti, senti Sala, il sindaco di Milano. Penso che si debba arrivare in un periodo non lunghissimo allo stadio Smoking Free. È chiaro che il tema del 2030 è una visione, bene. Però quando parli di spazi aperti, se mi fumi di fianco, lasciami dire, mi dà fastidio, ho la libertà di spostarmi. Se sono in fila, se sono la fermata, se sono allo stadio, non ho la libertà di spostarmi. Vuole, chissà quando sarà attuabile questo divieto e in quale stadio. Oggi c'è l'ennesima riunione, siamo nel paese delle riunioni per il nuovo San Siro. Vuole il divieto di fumo al, allo stadio il sindaco. Ma allora io devo dirti una cosa. Quando l'Inter era allenato da Hector Raul Cooper, quindi andiamo indietro, 20 anni fa. Sì. Faceva delle partite che erano sempre uno spasmo, una roba preagonica, no? Uh-huh. Allora in quel periodo lì io ho incontrato Vasco Rossi, che saluto, no? Grande tifoso nerazzurro. Uh-huh. E dovevamo parlare di altre cose e lui a un certo punto mi ha detto adesso voi te lo traduco dal baschese, no? Avevo smesso di fumare. Vado a vedere l'Inter di Cooper a San Siro, ho ricominciato a farmi un pacchetto di 90 minuti. Allora il sindaco Sala ha ragione, parte le battute, ha ragione. Posso dirti che io mi ricordo l'Olimpiade a Sydney nel 2000, che ero là, non si poteva fumare già allora nello stadio olimpico di Sydney. È evidente che per certi tifosi, soprattutto interisti, è una limitazione, perché quando tu vedi certe cose tipo il pareggio di Mancuso, come diavolo si chiama, ti viene quasi irresistibile se hai il vizio, no? Sì. La tentazione di correre al pacchetto. Però è vero, lo dico io che purtroppo sono un fumatore, tutto quello che si può fare per limitare l'uso della sigaretta, del tabacco in luoghi pubblici è giusto che lo si poi faccia. Alle corse ci sono ormai restrizioni severissime, quasi draconiane, per tutte queste robe qui, ma d'altra parte per l'interista normale si è tornati alla normalità, no, in questo weekend col pareggio di Lecce e gli strilli e i frigni arbitrali, no? I frigni contro il sistema. Io, ma che mi frega? Come un riccio, ma sì, ma no. Ma sì, ma perché parlo con, perché posso parlare con te, quindi godo, perché so che il martedì parlo con te. Gli interisti lo sappiamo che tu non hai una particolare simpatia per la beneamata, cosa vuoi? Ce ne facciamo poi una ragione alla fine della fiera. No, io ho una simpatia incondizionata per Lotito, che adesso ha scritto, hai letto, no? Multata la Lazio per qualche braccio malandrino, qualche braccio destro malandrino alzato in curva a partita con il Ren, 50.000 euro di multa. E lui ha preso carta e penna e ha scritto: cari miei amichetti ultra, mi dovete, voi che eravate lì con il braccio alzato, mi dovete 50.000, quindi organizzatevi un po' come volete, vi faccio scrivere, ditemi quali sono le modalità di pagamento e insomma fatevi vivi, fatevi sentire voi. Ma il braccio destro alzato, io penso sempre quello che ci diciamo con te, con Marino che saluto, immagino sia in Ecuador dalla zia di Carapaz, ma tornerà in questo bar. Io ripeto sempre la stessa cosa: per me negli stadi non ci dovrebbero essere forme di manifestazione di qualunque genere ispirate dalla politica degenerata, dal razzismo, dall'intolleranza, dalla xenofobia. E visto che ci siamo, ne avrai già parlato, ma mi fa piacere aggiungere la mia voce perché sono sicuro che l'hai detto. È stato davvero disdicevole che l'intero calcio italiano non abbia pensato l'ultimo weekend di fare un minuto di raccoglimento in memoria di Pietro Anastasi. Io sono tantissimo che la memoria, il culto della memoria è l'antidoto migliore contro quello brutto che c'è nella nostra società, anche nel nostro modo di vivere le passioni. Guarda, è stato scritto tanto a proposito di Anastasi. Io mi ricordo, così ti commuovo, che quando ero in terza elementare, ahimè moltissimi anni fa, Anastasi aveva cominciato a giocare nella Juve, una maestra elementari ci chiese di raccontare in un tema libero chi fosse il nostro personaggio preferito. Lui era nella Juve, io sono dell'Inter. Hai raccontato lui? Dedicai il mio testo ad Anastasi perché l'idea di un siciliano al nord, nell'Italia di allora, era un po' il completamento dell'utopia di Giuseppe Garibaldi. Beh, guarda dove si può arrivare. Già in terza elementare si capiva che eri un califfo, eri un califfo della penna. Devo chiudere quello che oggi è stato il Martur. Vediamo se martedì prossimo tornerà Marino Bartoletti. Intanto io ovviamente ringrazio Leo Turrini, Claudia Schiattone e Gianmarco Ferronato. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti.